Venerdì faremo, all'interno di questa rassegna che abbiamo chiamato Eventi di Liberazione, che in realtà è cominciata da fine marzo, in cui abbiamo organizzato tutta una serie di incontri a tematica di fondo dell'antifascismo, ma in cui abbiamo abbracciato vari aspetti, dalla controinformazione alla presentazione di opuscoli appunto su controinformazioni e movimenti neofascisti oggi, alla presentazione di libri, alla passeggiata resistente che c'è stata in quartiere. All'interno di tutto questo abbiamo deciso di concentrarci venerdì 20, quindi in una data anche abbastanza importante per Bologna, perché il 21 aprile sappiamo che è la liberazione della nostra città, in un'iniziativa un po' più particolare con appunto la Claudia Pinelli, figlia di Giuseppe Pinelli, che verrà credo per la prima volta a Bologna e che siamo molto contenti di ospitare, e questo per un paio di considerazioni importanti. La prima è che in questo contesto di questo inverno e inizio primavera italiano è evidente la necessità di riparlare in modo concreto di antifascismo in tutte le sue forme, quindi XM non si è tirato indietro alla necessità proprio di quindi parlarne in tanti ambiti e modi diversi, da appunto la passeggiata alla presentazione di libri opuscoli e quindi alla partecipazione a varie situazioni anche allargate collettive, non da ultimo sarà ovviamente la partecipazione al corteo cittadino del 25 aprile, però avevamo anche la voglia di aprire a un antifascismo che crediamo debba essere anche molto sinceramente collegato a una critica tutto tondo allo status quo e allo Stato nel quale al sistema nel quale ci troviamo a vivere e ad essere, e per questo abbiamo ritenuto opportuno invitare una persona come la Claudia Pinelli, appunto figlia di Giuseppe, che è stato defenestrato dalla questura di Milano nel 1969 dopo la strage di Piazza Fontana, e quindi in un momento in cui sembrerebbe strano, perché di Piazza Fontana di solito se ne parla a cavallo di dicembre, non se ne parla ad aprile, mentre noi avevamo proprio voglia invece di rimettere anche un episodio di questo tipo all'interno di un dibattito sull'attualità dell'antifascismo e all'attualità della resistenza oggi, che quando di antifascismo purtroppo oggi ne stanno parlando in tanti con le parole, ci sembrava giusto provare a ricordare un po' come l'antifascismo debba anche essere collegato a sia una consapevolezza storica in Italia, sia a una consapevolezza di quale tipo di mondo si affaccia a chi vuole criticare il fascismo in ogni sua forma, e quindi anche il fascismo dello Stato, della violenza delle forze dell'ordine, della violenza di questo sistema sostanzialmente nel quale ci troviamo a vivere. Anche perché appunto facevi riferimento al fatto che la parola antifascismo viene riutilizzata anche in reazione, diciamo così, a quanto accaduto a Macerata, a Firenze, in tanti altri luoghi purtroppo, però nel dibattito pubblico sembra quasi che ci sia la patente dell'antifascista che deve essere in un certo modo e deve rifiutare certe pratiche e accoglierne solo altre. Esattamente, ma soprattutto si sta svuotando totalmente di un significato e rischiamo molto di farlo diventare una bandiera che deve essere sempre, come a XM ci teniamo a ribadire sempre, collegata a delle pratiche e collegata a dei modi di vivere, di organizzarsi e di autogestirsi. Quindi in questo senso è da intendere secondo noi anche l'apertura di un dibattito di questo tipo in città. Non da ultimo ci tenevamo a ribadire, visto appunto la situazione che sappiamo tutti sta vivendo, vive XM da qualche tempo, il ruolo che questo spazio ha avuto e ha in città ormai da 15 anni, e quindi uno spazio pubblico autogestito e aperto di discussione a vari livelli, che crediamo sia una risorsa fondamentale e importantissima per questa città, e quindi abbiamo voluto fare entrambe le piste, diciamo così. Non ci sarà nella serata solo l'incontro con Claudia Pinelli, c'è qualcosa prima e dopo, puoi raccontarcelo? Sì, allora dopo ci sarà un concerto di Le Fab Trio, Gypsy Jazz, Speed Manouche, a chiudere con un po' di allegria. Prima ci sarà una cena benefit a cura di The Rich dalle 20, e a precedere dalle 19 invece ci sarà proprio un reading a due voci, Malcolm Mix Still Life di Adriano Padua e Lorenzo Mari, che parla proprio anche questo di morti di Stato, dal Drovandi fino a Alexis in Grecia, e di morti uccisi di persone uccise dalle forze dell'ordine. Quindi sarà una giornata particolare, piena di contenuti, e poi dopo per finire in realtà con un po' di manouche, perché bisogna anche mantenere la presa bene a cui siamo molto legati, relativa anche al fatto che quando si diciamo antifascismo e resistenza oggi, un'altra delle cose importanti è proprio il mantenere attivo e vivo la necessità, l'urgenza e la voglia di resistere nella pratica e nel quotidianità delle nostre vite.